Aspetti un attimo. Buona! Leggera, leggera, leggera! Mozzarella! Veramente leggera! La possedeva? Non ci abitava tu. Abbiamo perquisito di nuovo. Non so perché, ma c'è una brutta bestia dentro di me che mi butta giù. Ogni giorno vado sempre più giù. Io lo so cos'è, è quel pezzo di cervello che ancora lì, lì con me, nella testa e non si muove più. Brutta bestia dentro di me che mi strozza se, se mi viene ancora in mente te. Io lo so cos'è, è quel pezzo del mio cuore che è ancora lì, lì con me, e ogni tanto batte senza un perché. No, io non lo voglio, voglio darlo via, voglio il cambio, un'altra TV, la metto in fianco a me nel letto di casa mia, mi dico baby. Non ballare, devi stare sullo dito, devi stare ad ascoltare. E quindi non pensare, non pensare, tu sei pazzo, tu pretendi di pensare.